I racconti di Storiacce di Raffaella Calandra. Ricordo il ricovero in ospedale a Codogno. Mi hanno raccontato che per 18 giorni sono stato in terapia intensiva per poi essere trasferito nel reparto di malattie infettive, dove ho ricominciato ad avere un contatto con il mondo reale e a fare qualcosa più semplice e bella, che è respirare. Ora lui è guarito e la sua storia, la storia di Mattia, il 38enne di Codogno, sarà per sempre l'emblema del momento in cui l'Italia e poi tutto il mondo entrava nella peggiore pandemia dell'era moderna e nella più grave crisi dal secondo dopoguerra. Era il 21 febbraio quando a questo ricercatore dell'Odigiano veniva diagnosticata l'infezione da coronavirus. Fu considerato il paziente 1, ma lo è stato davvero? Sempre più segnali ora sembrano dire di no e sempre più testimonianze impongono ora una domanda. Davvero eravamo pronti all'emergenza che già sconvolgeva la Cina o ci sono state sottovalutazioni in un mondo globalizzato? Sino adesso abbiamo seguito una certa linearità e continuità di comportamenti e di criteri. Ritornando indietro rifare tutto. Abbiamo detto che sarebbe stato fondamentale assicurare innanzitutto priorità alla tutela della salute dei cittadini. Abbiamo detto che le misure andavano assunte, quelle restrittive, secondo criteri di adeguatezza e di proporzionalità. Il premier Giuseppe Conte ha ragione quando dice, citando Manzoni, che del senno di poi sono piene le fosse. Questo non è un processo, ma poiché abbiamo ancora davanti fasi delicate, riflettere su quanto avvenuto può aiutare a migliorare le scelte future ed è un dovere, io credo, verso le 13.000 e più vittime dell'epidemia. È come se una cittadina intera della nostra provincia fosse stata interamente distrutta. Il 29 io ho cominciato ad avere un po' di febbre, il 2 marzo sono andato in pronto soccorso, mi hanno ricoverato d'amblè con una polmonite interstiziale abbastanza imponente, diciamo. Se avessi perso tanto tempo non so se sarei qui a parlare con lei. Pietro poi domani ora sta aspettando che il doppio tampone certifichi la sua guarigione dopo più di un mese di malattia. E nell'affanno della sua voce e in qualche residuo di tosse ci sono ancora tracce del virus. Ma Pietro poi domani non è solo uno dei tantissimi italiani che per fortuna sta guarendo dal Covid-19, ma è anche medico di base di Cividate al Piano, borgo della Bergamasca, dove già molto prima del fatidico 21 febbraio di polmoniti diverse dal solito ne aveva viste molte, ma molte di più, e già da subito dopo Natale. Che fosse un mancato funzionamento dei vaccini anti-influenzali in un primo momento. Personalmente ne abbiamo fatte tantissime di radiografie. Queste broncopolmoniti anche proprio di tipo interstiziale? Sì, forse la maggior parte. Visto cosa è successo, non dico che ci metterei la mano sul fuoco, ma ci mancherebbe proprio poco. Cioè, la mano sul fuoco che quelli si trattassero di casi di Covid. Il coronavirus ha cominciato a girare qui a gennaio o addirittura alla fine di dicembre. Quindi anche paragonati rispetto ai casi che avete visto negli anni precedenti, i numeri... Sì, non c'era paragone. Io non mi ricordo un anno in cui abbia fatto effettuare tante radiografie al torace. Quindi già, diciamo, da dopo Natale o comunque gennaio c'erano questo tipo di polmoniti anomale che giravano in un'area che poi sarebbe diventata uno dei focolai peggiori. Però voi non avevate ricevuto alcun tipo di allerta rispetto alla possibile circolazione? Niente. La prima allerta è stata quella del 31 gennaio, perché c'era l'input dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Il fatto che sia stato trovato il 20 secondo me è stato un ritardo enorme, perché già un ente superiore, un ente che ne so, la regione, già verificando i dati, ad esempio vediamo quante radiografie e tacche al torace sono state fatte a gennaio, avrebbero potuto già agganciare diverse persone dove avrebbero trovato tanti positivi secondo me. E di sicuro, diciamo, si poteva porre la questione se c'erano o meno tutte le attrezzature per far fronte ad un certo tipo di epidemia. No, no, no. non c'era nessuna attrezzatura. E non si era posta la questione? Non hanno posto nessuna questione. Noi, quando è venuto l'allarme dopo il 20, abbiamo cominciato a comprare qualche mascherina, tanto per dire, ma di nostra spontanea volontà. Testimonianze che ora emergono numerose, soprattutto da quelle aree che sarebbero poi diventate i peggiori focolai dell'epidemia, laddove ora nelle pagine dei necrologi e nei registri dell'anagrafe si misura l'effettiva entità di quanto successo. Ad Alzano Lombardo l'anno scorso, tra il 1 e il 21 marzo, erano morte 8 persone, quest'anno 83. Ad Albino erano state 12 l'anno scorso, ora 99. A Nembro l'anno scorso si erano svolti 11 funerali in quel periodo. In tutto il 2019 erano stati 120. Quest'anno, nei 20 giorni di marzo, sono morte 121 persone, più di quanti erano stati i decessi dell'intero anno precedente, e sono morte senza esequie. E il parroco Don Matteo Cella, proprio come i medici, ha capito subito quanto più ampia fosse la strage in corso, iniziata già a inizio 2020. Nei primi mesi comunque del 2020 la media dei decessi è stata comunque molto più alta rispetto alla norma. È il segno che secondo noi ci fa dire con una certa sicurezza che questo virus già era presente. Ecco, infatti questo è un elemento che anche molti medici di base di tutta la provincia di Bergamo ora testimoniano, cioè di aver notato già da subito dopo Natale tante polmoniti molto gravi e anomale, e voi avete anche notato purtroppo anche già molti più decessi di quanto in genere non avvenisse. Già a gennaio del 2020 il numero dei funerali era decisamente sopra la media, nell'ordine del doppio rispetto all'anno precedente. Calcoli che il numero dei funerali celebrati nel 2019 era circa 120 a Nembro. Questo numero è stato coperto nel solo mese di marzo. E neanche tutto il mese di marzo, in 20 giorni del mese di marzo, sì. Esatto, quindi siamo decisamente in una situazione anomala, ma già anomala a gennaio e febbraio. C'è un aspetto però, Don Matteo, che è appunto la solitudine percepita dei malati, che non hanno potuto avere alcun tipo di interazione con i loro cari fino all'ultimo momento, e anche quella solitudine dei corpi dei defunti. Questo della solitudine è un dramma che ha due facce. Uno è quello che giustamente ricordava di chi è ammalato, soprattutto di chi è andato in ospedale. Ci sono alcuni preti a Bergamo, pochi, che hanno avuto la possibilità di stare dentro l'ospedale. Per esempio il cappellano dell'ospedale di Alzano, che è uno degli ospedali dentro il vortice di questo ciclone, che ha deciso di era già all'interno dell'ospedale come cappellano di quella realtà ospedaliera, e lì è rimasto per tutte queste settimane, non è mai uscito, così da poter rimanere all'interno senza rischiare di portare il virus eventualmente all'esterno, e con tutta una serie di precauzioni in accordo con la dirigenza chiaramente dell'ospedale, ha potuto rimanere accanto ai malati. Non aver chiuso subito tutta quest'area ha contribuito a peggiorare le cose? Ora in molti lo pensano, e dire che proprio poche ore prima che Codogno diventasse zona rossa, venerdì 21 febbraio, a Bergamo i medici discutevano su come affrontare l'eventuale emergenza Covid, e invece ci siamo trovati senza indicazioni superiori e senza strumenti per fronteggiare la piena, denuncia Roberto Moretti, responsabile dell'Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo. Sento adesso tantissimi colleghi che, ricostruendo col senno di poi, si rendono conto che c'era già in giro, diciamo, il Covid. Io devo dire che noi, la TS e l'Ordine dei Medici di Bergamo, aveva organizzato una serata sul Covid. Certo. Poi, però, ovviamente la preparazione e una conferenza culturale sono due cose diverse. Senza dubbio. E che cosa era emerso in questo incontro che avevate fatto? Beh, lì è stata una serata importante ma anche drammatica, perché proprio quella sera lì la regione aveva deciso di chiudere Codogno, quindi c'era un interesse altissimo da parte di tutti, ed è emerso che sarebbe arrivata l'epidemia un po' da noi e che avremmo dovuto prepararci rapidissimamente. Ah, quindi proprio il 21 febbraio, cioè la stessa sera di Codogno? Sì, quella sera lì avevamo organizzato 15 giorni prima, sembra un tema importante, facciamo qualche cosa. Okay. Ma quindi vi sentivate preparati? Cioè, o era emerso già quella sera in qualche modo una prima riflessione tra medici sul fatto che si erano già notate anche un po' di No, polmoniti questo in no, aumento? questo no, questo no. Non era emerso quella sera lì, era emerso che era un tema importante e dopodiché abbiamo avuto a metà di questa conferenza la dichiarazione della regione perché i nostri direttori sono arrivati subito e ci hanno detto che avevano chiuso la zona di Codogno, insomma. Anche a lei risulta, diciamo, nelle testimonianze che le sono giunte di medici, che in queste zone ci siano state già, diciamo, dopo Natale, quindi gennaio-febbraio, registrato questo aumento di polmoniti? Sì. Cioè Quindi. io ho parlato con quasi tutti i medici della zona, quindi tanti me l'hanno detto, sì. Però non c'era alcun tipo, diciamo, di indicazione che potesse far venire il dubbio che si trattasse non di una polmonite normale come a volte girano. Si erano chiuse le frontiere, ma Il sono 31 tutti immuni gennaio, alla quello, Cina. Il fine 31 gennaio gennaio, si sì. erano chiuse, quindi c'era questo senso di sicurezza, anche abbiamo chiuso, per cui invece il virus non guarda in faccia a nessuna frontiera e No. gira, come si vede purtroppo anche negli altri stati la situazione, e il livello di preparazione è anche di meno del nostro, voglio dire. No, no, purtroppo Sì, drammaticamente è così, questo purtroppo. ahimè non Se vede consola. Madrid, Londra, New York, no, assolutamente non consola, però è così. Pensi che l'epidemia della spagnola ha fatto 50 milioni di morti nel 18? Ma anche lei è convinto che comunque rispetto alle cifre ufficiali della zona della provincia di Bergamo, sia di contagi che purtroppo di vittime, bisogna moltiplicare per... Sì, assolutamente, ma ci sono degli studi, delle proiezioni, sono sicuramente molte di più, molte di più. Una riflessione per chi come lei è all'interno dell'ATS, quindi con, diciamo, con compiti anche, diciamo, dirigenziali rispetto alla gestione sanitaria della zona, sulla preparazione e sulla consapevolezza anche della pericolosità, non eravate stati tanto messi a parte di questi effettivi rischi? No, avremmo dovuto pensarci tutti, ma come vede, da nessuna parte del mondo nessuno ci ha pensato seriamente. Hanno detto una cosa cinese, c'era stata purtroppo o per fortuna la SARS. Un po' di anni fa che ci aveva fatto preparare un sacco di cose, poi non è arrivata. Io credo che questo fatto sia stato deleterio da un certo punto di vista, perché abbiamo un po' dimenticato questa preparazione. Con la SARS eravamo molto più pronti, poi non è arrivata, tutti quindi hanno cominciato a prendere un po' sotto gamba. Quando succede qualcosa in Cina o in Africa ci riguarda poco. Quindi non si è posto proprio il tema di verificare quante mascherine, quanti ventilatori, quanta capacità di accoglienza nelle terapie intensive abbiamo, diciamo. No, qualcuno se l'è posto sicuramente, però non è emerso come un'indicazione precisa, però sì. Ma secondo lei è stato, adesso più di un mese dopo, è stato un errore non chiudere la Valseriana? Non lo so, so che diciamo che la chiusura di Codogno ha portato a una riduzione dei casi, però il tema era la preparazione prima, cioè dovremmo su queste cose essere sempre allerta e sempre preparati. Succede una volta ogni 10 anni e questo è il problema, che quando si grida al lupo sempre, poi quando arriva il lupo davvero nessuno ci fa più caso e poi quello morde. Dunque, il paziente 1 quasi sicuramente è solo il primo a cui è stata diagnosticata la malattia grazie all'intuizione di una giovane anestesista. Dunque, il virus circolava già da molto tempo, almeno in Lombardia, senza che fosse collegato all'epidemia che già aveva portato la Cina a chiudere del tutto la città di Wuhan e 60 milioni di persone, quanti tutti gli abitanti dell'Italia. Ma quali erano stati i protocolli presi dal nostro paese ed erano adeguati? E soprattutto, ora saremo pronti a fronteggiare la fase delicata della graduale riapertura? Da qui ripartono tra pochissimo i racconti di storiacce. Radio 24 è sempre con te. Ci siamo sempre stati e in questo periodo difficile continuiamo ad esserci, anzi, ancora di più. Resta a casa. Noi pensiamo ad informarti con i nostri GR, ad intrattenerti con i programmi in diretta anche in video. Con contenuti speciali creati apposta per te, che puoi ascoltare da casa tua quando vuoi. Scarica la nostra app o vai su radio24.it e scopri tutti gli approfondimenti, gli speciali, le dirette e i podcast esclusivi, sempre disponibili sulla nostra homepage e su tutte le principali piattaforme. Resta a casa con Radio 24. Noi ci siamo sempre. Radio 24. La passione. Si sente. Si sente. I racconti di Storiacce di Raffaella Calandra. Il coronavirus è arrivato come un'ondata, imprevista, sconosciuta, che ci ha travolto tutti. Paola Nicolini è un medico di base di Bergamo e, come tanti suoi colleghi, sia negli ambulatori che negli ospedali, ora ripensa a tutto quello che aveva visto già prima che per l'Italia cominciasse ufficialmente l'epidemia. Secondo me è qualcuno che qualche peso sulla coscienza dovrebbe averlo. Così tante polmoniti, tutte simili e tutte anomale, come avete sentito nella prima parte di Storiacce, così tanti morti in più del solito. Ma ora che è passato quasi un mese e mezzo dall'inizio di tutto, ora che forse il peggio è lentamente verso le spalle, ma le vittime sono una cifra mostruosa, ora i ricordi di Paola, come degli altri medici che abbiamo sentito prima, ci devono trasmettere un interrogativo. Perché quei dati così anomali non avevano fatto scattare subito l'allarme rispetto ad un'epidemia già nota nel mondo? Perché in una delle regioni con la sanità, almeno fino ad adesso considerata tra le migliori d'Italia, non c'era alcun preallarme vista l'intensità dei rapporti con la Cina e considerando che Milano e la Lombardia sono l'area più internazionale d'Italia? Possibile che in un mondo così globalizzato nessuno avesse pensato che la Cina non fosse poi così lontana e ancor di più, come poi è successo, che il pericolo non dovesse necessariamente e direttamente arrivare con un volo proveniente dalla Cina, ma poteva per esempio passare, come poi effettivamente è successo, attraverso la Germania? Il punto qui non è tanto la gestione dell'emergenza dopo il 21 febbraio, dopo la scoperta cioè del primo focolaio dell'Lodigiano. Quella forse sarà analizzata più avanti. Quello che queste testimonianze ora ci stanno dicendo è che i segnali del pericolo e dell'epidemia c'erano già da molto prima, già da forse fine 2019, di sicuro dal gennaio 2020. E averlo scoperto solo a fine febbraio, come ha detto prima un medico bergamasco, è stato un errore fatale. Ma perché questo è successo? Ed è successo anche in una regione che dovrebbe essere all'avanguardia? L'allerta c'era e come, ma c'era su un protocollo definito con delle indicazioni precise sulla possibile provenienza di un paziente. Se ti arrivava qualcuno con certe caratteristiche dalla Cina, dovevi assolutamente pensare a questo. Massimo Galli, primario dell'ospedale Sacco di Milano, l'istituto punto di riferimento per le malattie infettive, è uno dei volti di questa emergenza. Ci sta accompagnando nel percorso di conoscenza e comprensione di un virus nuovo per gli stessi scienziati che ha bloccato e terrorizzato le nostre vite. Ebbene, anche se con eleganza, il professore non manca di sottolineare il punto dolente della preparazione all'emergenza. Il requisito fondamentale, cioè per individuare un contagiato da coronavirus, all'inizio doveva essere solo la provenienza dalla Cina. E se i dati clinici invece, come è stato per Mattia, il cosiddetto paziente 1 di Codogno, non coincidevano con quelli protocollari, ecco che allora questo scenario veniva accantonato. Come se in un mondo globalizzato un tedesco, come poi è stato, non potesse aver incontrato una persona rientrata dalla Cina e non potesse a sua volta aver infettato un francese e poi un italiano o ancora chissà chi. O ancora potrebbe aver viaggiato nello stesso aereo con un altro passeggero, o casomai di rientro da Pechino con scalo chissà dove, e quindi come risalire al punto iniziale e scoprire la Cina all'inizio di tutto? Una pecca che mostra come nemmeno le dinamiche della globalizzazione riescano a scalfire fino in fondo quelle della burocrazia. Il paziente 1 non aveva queste caratteristiche, aveva le caratteristiche cliniche, ahimè, che potevano però essere comuni ad altre condizioni. Non aveva le caratteristiche, diciamo, protocollari, tra virgolette, su questa cosa. Teniamo anche conto che addirittura ci fu una attribuzione e una diagnosi anche per il fatto che questa persona, scavando nella sua anamnesi, scavando nella sua storia, era stato a contatto con un'altra persona che era invece venuta dalla Cina. Peccato che questa persona venuta dalla Cina è stato provato che non ha mai avuto l'infezione. Era negativo anche per gli anticorpi. Quindi da questo punto di vista, noi veramente siamo stati presi alle spalle. Le caratteristiche protocollari, riflettete su queste parole, perché anche il linguaggio per certi versi indica i limiti di dinamiche che forse dopo questa pandemia dovranno necessariamente cambiare, come molte nostre abitudini, almeno per i primi tempi. Un'epidemia da qualche parte del mondo d'ora in poi non sarà più percepita come un fatto distante da noi, ma ci dovrà interessare molto da vicino, così prima che nessuna proclamazione ufficiale certificasse l'epidemia in Italia, se non per i due cinesi ricoverati allo Spallanzani di Roma, ai primi di febbraio una quarantenne milanese, Cristina, diventava l'ultima della famiglia ad ammalarsi di una polmonite mai avuta prima, con anche problemi agli occhi, il primo e più ricorrente sintomo da coronavirus, insieme alla perdita di olfatto e gusto. L'ultima settimana di gennaio mio marito e mio figlio hanno avuto una febbre altissima, mio figlio addirittura 39,8, mio marito 39,5, comunque quindi diciamo abbastanza anomale, cioè certo. Accompagnata questa febbre molto alta da tosse, mio figlio aveva anche questi occhi rossi, proprio gli occhi proprio irritati di rosso. Certo. E poi il 3 febbraio ho iniziato a stare male e sembrava esattamente lo stesso tipo di così virus, dice, la febbre così alta e continuata accompagnata da una sensazione proprio di stanchezza, tanto che io il secondo o terzo giorno non riuscivo a parlare, ma neanche per mancanza di forze. Esatto, per mancanza di forza, ma io... Ecco, siamo quindi ai primi di febbraio, quando ancora, diciamo, sicuramente non era cominciata ufficialmente l'emergenza, no, che cominciava esatto. Il 20 febbraio, però un po' se ne cominciava a parlare, c'erano stati i cinesi esatto, a Roma. Sì, cioè io mi ricordo che aprivo la televisione in quei giorni che ero a casa e continuavo a sentire, cioè erano tutte le trasmissioni, diciamo, tutte concentrate sul coronavirus in Cina. Mi è venuto a visitare il medico, mi ausculta, dice sì, ma qui c'è minimo la bronchite, le do comunque un antibiotico perché dice sa girano anche tante polmoniti in questo periodo, quindi le do un antibiotico anche per la polmonite. Anche il suo medico, e quindi parliamo di un medico milanese immagino, le dice in questo periodo girano tante polmoniti. Sì, cioè mi aveva detto una cosa, cioè c'erano un po' di polmoniti in giro e la febbre inizia a salire e il terzo giorno non scendeva neanche con la tachipirina. Quindi a quel punto siamo andati al pronto soccorso. Ecco, lei aveva problemi anche agli occhi e che tipo di polmonite le è stata diagnosticata? Allora, in ospedale mi è stata diagnosticata una polmonite atipica, cioè nella radiografia c'è anche scritto però che aveva un interessamento interstiziale. Le avevano chiesto se per caso fosse tornata dalla Cina, perché in quel momento erano quelli, diciamo, devo dire che sono stata io a fare la battuta dicendo purtroppo ancora non mi sono mai recata in Cina e vorrei andarci perché vorrei visitare la Grande Muraglia, non sono mai stata in Cina. A Cristina il coronavirus non è stato mai certificato da alcun tampone che è stato impossibile fare. E quando tutto questo sarà finito, lei sarà tra i tantissimi che proveranno anche attraverso gli esami degli anticorpi a verificare se abbiano o meno contratto il virus e quindi ora ne potrebbero essere immuni. Un'informazione molto preziosa in un momento in cui si comincia a discutere delle modalità di apertura dell'Italia, quando cioè inizierà la fase 2 e poi progressivamente si tornerà, si spera, alla quasi normalità. Allora, quelli immunizzati saranno i primi a poter tornare a lavorare e circolare senza problemi? La prudenza e la preoccupazione ora è enorme, soprattutto dopo che poggiano su basi sempre più solide gli interrogativi sugli effetti di sottovalutazioni iniziali e generalizzate e di errori successivi e specifici. Errori che hanno portato la regione motore economico del paese ad avere problemi di dispositivi di protezione per i suoi medici e quanto a lungo e a varie dimensioni sono stati considerati pazzi. Quelli che, come questo farmacista di Alzano Lombardo nel Bergamasco, inveiva contro la gente che ancora stava in giro col gelato in mano nei primissimi giorni dell'emergenza. Domenica 8 marzo io ho avuto 42 chiamate per bombole d'ossigeno. Io avevo zero bombole. Io penso che, non mi vergogno a dirlo, aver pianto 42 volte quando non sapevo cosa dire alla gente che mi diceva: io come faccio? Mio marito, mio nonno, mio padre. Questo è quello che succede perché quando il 23 si è detto di stare chiusi in casa, nessuno è stato chiuso in casa. L'8, quella domenica 8 che ricorderò per tutta la vita, 42 chiamate per ossigeno, probabilmente 42 morti. Quella domenica pomeriggio la farmacia era aperta e fuori dalla farmacia passavano le famiglie con i gelati in mano. 6 marzo, ad Alzano Lombardo c'erano già 40 morti, credo. Se dunque tutto questo sarebbe iniziato molto prima di quanto ufficialmente proclamato, se i protocolli, come abbiamo visto, rispondevano ancora a logiche non proprie di un mondo globalizzato, se alcune sottovalutazioni iniziali possono aver trasformato anche ospedali e case di cura per anziani in luoghi di contagio, se insomma una profonda riflessione prima o poi andrà fatta quando tutto sarà finito, ora l'Italia ha davanti a sé un'altra fase altrettanto delicata, quella della lenta riapertura, quella della convivenza col virus prima dell'uscita dall'emergenza, per dirla col premier Giuseppe Conte. Nel momento in cui i dati dovessero consolidarsi, inizieremo già a programmare un allentamento delle misure. Non vi posso dire però il 14 aprile. Non siamo nella condizione. La fase 2 è quella di convivenza col virus, di adottare delle misure, diciamo, che pian piano portano all'allentamento per poi entrare nella fase 3, che è quella dell'uscita dall'emergenza. E in queste ultime fasi, ancor di più, non ci possono essere errori. Sarebbero fatali da ogni punto di vista, sia sanitario ma anche economico. Per questo bisogna essere ancora più scrupolosi, è l'indicazione di Sergio Arari, pneumologo, direttore dell'unità operativa dell'ospedale San Giuseppe di Milano. Le politiche di restrizione che devono essere perseguite in maniera molto rigida e molto attenta. Anch'io ho la percezione che in questi giorni di vedere più persone e questa cosa mi inquieta. Per ciò che riguarda, diciamo, quello che può essere la fase 2, che crediamo fondamentale cercare di sviluppare appropriatamente delle strategie sul territorio che prendano a carico i pazienti sul territorio, possono anche sfruttare sia l'interazione con il medicina generale, sia le tecnologie digitali, sia anche un'attenta mappatura dei positivi, perché il rischio è che poi, una volta che noi dovessimo allentare le misure, l'epidemia potrebbe ripartire. Quindi anche, diciamo, non abbassare l'attenzione, ma anche non farsi trovare impreparati, quindi anche con un insieme, diciamo, di strategie da mettere in atto, perché forse l'Italia, come ahimè anche gran parte del mondo, si è fatta trovare in parte impreparata nella fronteggiare questa epidemia. Sì, è vero, diciamo che era difficile prevedere quello che è accaduto. Diciamo anche che i report cinesi, per quanto drammatici, non rappresentavano la situazione che poi ci siamo trovati ad affrontare. Detto questo, sicuramente ci sono stati degli errori, dei ritardi. In Lombardia il territorio è stato molto carente, probabilmente alcuni regimi adottati da regioni come il Veneto di maggior sorveglianza epidemiologica, in particolare un maggior numero di tamponi, un'attenzione agli operatori sanitari più puntuale, credo che abbiano dato risultati migliori di quanto non abbiano dato invece quelli della Lombardia, dove si è puntato molto sull'ospedale, ma si è pensato un po' meno a questi aspetti. ora ancor di più, anche se tutti siamo stanchi, anche se la primavera ci richiama verso il mondo di fuori, anche se tutti vorremmo solo allentare la tensione e abbracciarci, ora invece ancor di più dobbiamo tener duro e restare attenti per non fare errore e per mettere alla porta, oltre al virus, anche la paura. I racconti di Storiacce di Raffaella Calandra. Potete riascoltare questa e tutte le altre puntate sul sito di Radio 24 e su tutte le piattaforme podcast. Seguiteci e fateci avere commenti e segnalazioni sui social, su Twitter e Instagram. L'account è @RaffCalandra. Ma soprattutto, ricordate, restate davvero a casa.